Radio 24 Reportage. Diari di Smart Working. Storie di lavoro da casa. Di Anna Marino. Un'accelerazione agile che non potremo più dimenticare. Dopo settimane di emergenza, Covid-19 passate in casa, sono cambiate le abitudini di tutti. L'obbligo di restringere le relazioni sociali, la distanza di sicurezza di almeno un metro, la chiusura delle scuole e i figli a casa hanno visto una necessaria impennata di smart working e smart schooling per chi ha figli, per integrare i tempi di vita e di lavoro diventati improvvisamente la nostra realtà quotidiana, obbligata. Ma ci siamo organizzati tutti. Mamme come Claudia e Sara, single come Patrizia e papà come Luca. Da 3 settimane sono in smart working. Con 3 figli, 2 all'elementare e 1 in prima media, non è certo semplice conciliare il lavoro e il ruolo di mamma che deve supervisionare consegne e video lezioni. Tendenzialmente cerco di ritagliarmi uno spazio dove potermi isolare dopo aver assegnato dei compiti che possano svolgere in autonomia. Lo smart working è positivo. In questa circostanza si evidenziano più interruzioni e spesso la concentrazione un po' si perde. Alla fine della giornata però posso essere comunque soddisfatta sia del lavoro svolto, magari in più tempo, però sicuramente si porta a termine, e anche i bambini comunque vengono seguiti adeguatamente. Oggi ero alla 3ª call della giornata dopo una lavastoviglie e un pranzo, e ad open microphone perché stavo parlando io, Lucio mi arriva da dietro e mi dice: mamma, non è come dicevi tu, una piccola borraccia, era effettivamente un muschio. Ecco, io ero in viva voce con circa altre 8 persone, scene di ordinaria follia. A fare questo smart working ci sono dei pro e dei contro. La premessa è che io abito da sola, in casa c'è silenzio e riesco a gestirmi i miei tempi come voglio. Tempi di spostamento sono completamente assenti, sia per andare che per venire dal lavoro, ma anche quelli della pausa pranzo, che diventano assolutamente accorciati. C'è un contro enorme, che sono i tempi dilatati. Mentre prima l'orario di lavoro aveva un inizio e una fine abbastanza precisa, che coincideva con il momento di quando entro e quando esco dal lavoro, adesso l'orario di lavoro è imprecisato. Ieri sera mi suonava il telefono alle 8. Un'altra cosa importante è stato che ho imparato a lavorare senza carta, cioè senza stampante. Ovviamente devi avere un'ottima connessione internet, degli strumenti di supporto informatici che ti danno una mano importante. L'attività in smart working è per alcuni versi estremamente più produttiva, perché si fanno solo le cose essenziali e si dicono solo le cose essenziali durante le riunioni. Allo stesso tempo però è un po' più faticosa, e quindi è essenziale nella giornata distanziare le videoconferenze una all'altra per avere delle pause sia di relax fisico sia psichico, poi avere un momento di break da tutti i device, quindi iPad, computer, telefonino, per poter staccare con le incursioni di mariti, mogli, bambini. Devo dire che poi è anche divertente. Lo smart working però non va inteso solo come pronta risposta alle emergenze, è una modalità per svolgere il rapporto di lavoro subordinato, e l'emergenza legata all'epidemia da coronavirus ha solo moltiplicato in modo esponenziale il lavoro agile già utilizzato dalle aziende in precedenza in base a contratti scritti e poi autorizzato dal DPCM 25 febbraio 2020 anche senza intese nero su bianco per ovviare ai divieti imposti dall'emergenza e ai rischi connessi. In Italia, secondo l'osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 hanno fruito del lavoro agile 570.000 lavoratori, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Oggi, in emergenza coronavirus, ci sono 554.754 smart workers in più. Secondo gli ultimi dati del Ministero del Lavoro, il traffico dati dalle abitazioni è aumentato del 20-50%, ma secondo i consulenti del lavoro, ben 8 milioni e 200 mila dipendenti in Italia che non svolgono mansioni manuali o a contatto con il pubblico sono in grado di lavorare da casa. Anche nei settori non strategici, che si sono fermati per decreto, si continua a lavorare smart working per prepararsi al dopo, e si sono scoperte nuove modalità di lavorare, anche un mercato sottovalutato, quello interno di casa nostra, come racconta dalla sua postazione di smart working in mezzo ai vigneti Olga Businello, direttore del consorzio Valpolicella. Io credo che la prima sfida in questo momento di smart working sia proprio quello di trovare come e consentire all'italiano di potersi bere un buon bicchiere di vino quando appunto sta a casa, farsi un buon aperitivo, ma anche riuscire a riscoprire l'abbinamento a casa di una buona cucina con un buon vino. Il lavoro appunto quotidiano, come è organizzato e come concilia produzione e lavoro agile? Allora, la mattina noi abbiamo delle videoconferenze, tutte le problematiche a 360 gradi. Noi abbiamo praticamente una quindicina di aziende che sentiamo, diciamo, per la parte commerciale, e poi abbiamo una seconda piattaforma, che è quella agricola, dove sentiamo circa una ventina di tecnici. Si lavora tutti a casa, c'è una concorrenza di accaparramento, insomma, della linea Wi-Fi? C'è un accaparramento della linea Wi-Fi, perché tutti ovviamente siamo in guerra nel riuscire a poterci interconnettere e lavorare. Miglioramento della produttività, riduzione dell'assenteismo, meritocrazia in base ai risultati e riduzione dei costi per gli spazi fisici. L'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano ha stimato il 15% in più di produttività per un lavoratore che abbia adottato un modello maturo di smart working. Chi aveva già fatto questa scelta non ha dovuto stravolgere il modello di business, la gestione del personale, la propria giornata. Una decisione che ora guarda al futuro, come sottolinea Marco Russomando, Head of Human Resources in una digital company come la banca Illimity. Noi lo smart working era già un modo di essere operativi, era la nostra normalità. Con l'avvento del coronavirus è diventata la straordinarietà. Dal 24 di febbraio tutti i dipendenti di Illimity sono in smart working. La vedo come un'opportunità da raccogliere quando questa situazione complessa sarà finita. Il vero cambiamento del lavoro qual è e quale sarà? Passiamo da presenza e tempo, che erano le richieste classiche di un manager, diciamo, del passato e forse in parte anche del presente, a impegno e risultati, e non quindi a un numero di ore che si passano davanti a un computer o a un telefono. Questo significa per i manager e per i collaboratori trovare nuove forme di organizzazione che portino gli impegni familiari, in questo momento particolarmente rilevanti per chi ha bambini o anziani a casa, all'interno dell'organizzazione del tempo lavorativo, che diventa a quel punto un tempo di vera qualità. Dagli imprenditori ai manager ai dipendenti scatta quindi una nuova organizzazione aziendale, familiare e personale. Cambiano i ritmi, la comunicazione tra i colleghi, si improvvisano chat di interi reparti su WhatsApp e altre piattaforme per la gestione del lavoro da remoto. Anche nelle aziende che devono continuare la produzione perché strategiche, si è ricorso a un mix tra smart working e presidio in azienda dopo la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, come nella Bergamasca Santini, che produce abbigliamento tecnico per ciclismo e triathlon. Ora riconvertita in produzione di mascherine certificate e idonee, Monica Santini, amministratore delegato. Per i nostri ragazzi, tra le altre cose, adesso stanno diventando tante settimane in cui sono a casa in smart working. Noi stiamo cercando anche di mandare a loro alcuni suggerimenti di cose da fare, anche solo banalmente fare la pausa caffè in conference insieme è una delle cose che abbiamo suggerito a tutti di fare, perché è comunque molto alienante lavorare da soli a casa. Abbiamo anche tante delle nostre ragazze che sono appunto mamme, perché noi abbiamo una quantità di lavoratrici donne molto alte, oltre l'80%, quindi molte di queste hanno figli anche a casa, quindi anche gestire tutti i bambini a casa pur facendo smart working non è una cosa assolutamente semplice o banale. In particolare non abbiamo dato orari fissi ai nostri dipendenti, nel senso che abbiamo dato la disponibilità a loro di svolgere in smart working quelle attività che non necessitano di avere un presidio orario vincolato. Non importa che lavorino dalle 8 a mezzogiorno, possono tranquillamente lavorare la sera se hanno messo i figli a letto e sono più tranquilli, quindi abbiamo dato questo tipo di flessibilità sicuramente perché è necessaria. In questo momento penso che il compito delle aziende sia veramente pensare un po' out of the box e di aiutare appunto il personale a svolgere al meglio le loro funzioni in queste condizioni un po' nuove. La famiglia a casa, insomma, come vi siete distribuiti le linee e i device? Ho una famiglia a casa, due figli, entrambi sono abbastanza grandi, una quindicenne e un bimbo di 10, ne sanno più di me di come ci si collega e di come si usano gli strumenti informatici. Ho un marito che fortunatamente per noi di lavoro fa appunto quello, fa l'informatico, quindi da noi le linee e i collegamenti non mancano proprio mai. Alla base del lavoro agile c'è però la libertà di scegliere di lavorare nelle modalità, tempi e luoghi più funzionali al raggiungimento degli obiettivi, e chi si è preparato in tempo a questa rivoluzione portata dal virus sa già organizzarsi con flessibilità la giornata di smart working, che però ora si è trasformato per le donne in extreme working, tra lavatrici, giochi con i figli e cucina, sempre più difficile da conciliare con call, riunioni virtuali e concentrazione necessaria, come spiega Luisa, già esperta da anni di lavoro agile. Non c'è nessun problema con lo smart working perché l'ho sempre fatto lavorando appunto sul web. Il problema sono i figli, organizzarsi con loro. I tempi si dilatano tantissimo, cominci presto di mattina, se devi fare una giornata lavorativa chiaramente, poi stai dietro un po' a loro, compiti per uno, richieste continue per l'altro e vai avanti fino a sera così, tra continue interruzioni. E anche per gli uomini si è trasformata da un'occasione inaspettata di riscoprirsi padri corresponsabili in un'opportunità di migliorare professionalmente, e difficilmente, come dice Ronnie, si tornerà indietro non solo nell'equilibrio familiare dopo questa rivoluzione digitale. Lavoro in smart working ormai da una ventina di giorni circa, nonostante la nostra attività sia una di quelle che potrebbe continuare ad essere svolta presso i propri uffici. Per quanto mi riguarda non è cambiato molto, avendo fatto a suo tempo la scelta di eliminare l'archivio cartaceo in favore esclusivamente di un archivio digitale. Speriamo che questa esperienza, per quanto drammatica, possa essere utile per capire che anche sotto questo profilo devono essere fatti dei grossi passi in avanti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.